Gli speciali di Radio 24. Annunzio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Eccoci qui, Papa Francesco, sono le 8:33 minuti, questo è lo speciale con anche Simone Spezza che mi ha raggiunto, buongiorno. Ciao Simone. Alessandro, buongiorno. Staremo fino alle 10 insieme, ti piace questo Papa dal poco, perché ormai il gioco è questo, vi piace questo Papa dal pochissimo che siamo riusciti a Dal pochissimo che abbiamo visto, insomma tutto sommato piace, vedo anche grandissime reazioni in rete, non solo, piace a tutti, anche a giornali solitamente critici con la Chiesa. Mi limito a ricordare naturalmente che insomma non è che perché si chiama Francesco e non ha l'accento tedesco, non, insomma non è che è un liberal di sinistra a questo punto, no, questo è chiaro, ma insomma parleremo della svolta della Chiesa, perché di svolta epocale si parla, e lo facciamo intanto con il primo ospite che sarà con noi nei primi minuti, Gianluigi Nuzzi, buongiorno collega che ha scritto due libri, l'ultimo Sua Santità, che ha avuto, ti ha causato anche qualche problema, Nuzzi, diciamolo francamente, buongiorno e benvenuto ovviamente. Si è arrabbiato qualcuno. Per te conclave precluso, ma è vero, cioè non hai potuto proprio seguire. Conclave precluso a tutti. Sì, certo. Mi hanno fatto andare in sala stampa, insomma, era anche prevedibile, visto dopo i tuoi libri documentati su poi tutto un percorso che ha portato a far emergere quello che accadeva in Curia e, come dire, cercava di vedeva l'azione di Benedetto XVI. Forte per riformare questa curia che poi ha mandato un po' in stallo pontificato. A proposito di curia da riformare, oggi il Sole 24 Ore pone un quesito molto diretto, e chi è questo? E tu, visto che hai studiato i documenti, puoi darci una risposta. Lo IOR sopravvivrà a questa svolta della Chiesa con l'elezione di Papa Francesco? Ma è un quesito interessante, anche perché i tempi per portare avanti tutte quelle riforme che erano rimaste un po' a metà non ci sono più. Poi c'è da chiedersi, questo lo faccio come osservatore, ha ancora un senso, un valore, un significato tenere in piedi questa banca che, oltre che scandali, mi sembra che grandi soddisfazioni a tutti non ne porta, no? Cioè c'è una stratificazione di segreti, di ricatti, di scontri di potere. Ma non solo da Marcinicus in poi, ma anche nel periodo più recente sono venuti fuori i conti intestati a prestanomi, suore, sacerdoti che prestavano il proprio deposito per operazioni poco trasparenti. E allora c'è da chiedersi se magari non voglia forse una convenzione normale con banche che possono fare una gara. Ricordiamoci che Francesco, visto che questo nome piace a tutti, come avete giustamente sottolineato, e basta un nome perché un papa piaccia? No, però è un bel segno. I primi segnali sono questi, no? Si diceva con Simone, cioè un gesuita che sceglie il nome del poverello d'Assisi, no? Dei francescani. È una scelta eretica. È una scelta, San Francesco, scusate se mi interrompo, ma San Francesco non aveva una banca, no? Anzi, era per dire una battuta, insomma. Questo certamente. Certo, però dovrà gestire, tra le tante cose da gestire, non so se saranno le prime cose che gestirà, i cosiddetti dossier, i cosiddetti vati leaks, insomma gli scandali. Come lo affronterà secondo te questo passaggio? Questa è una domanda cruciale, e c'è un antefatto che dobbiamo attendere. Bisogna vedere chi si sceglierà come segretario di Stato, perché il segretario di Stato ha una funzione cruciale nella tessitura di quei rapporti, di rendere operative le scelte del pontefice, no? Nella governance anche della curia. Bisognerà vedere se sarà un equilibrismo tra un papa straniero e anche le normali, prevedibili attese da parte dei curiali, di chi vuole Roma caput mundi, e chi invece vedere magari che invece non prende una persona che conosce la curia ma che non fa parte di quella tradizione che ha portato poi al dossier del quale voi parlavate, no? Questo dossier di 300 pagine che i tre cardinali hanno stilato fotografando tutte le criticità della curia. Bisognerà attendere il segretario di Stato. Dalla scelta del segretario di Stato capiremo l'agenda del nuovo Papa. Intanto facciamo così, Gianluigi, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, e Gianluigi Nuzzi, che insomma, Simone, abbiamo voluto anche partire, vogliamo partire così, non per essere irriverenti e prendendo dal lato dei cosiddetti Vatilix e scandali, ma sì, insomma c'è tanto da dire del Papa, sì, anche dell'aspetto religioso. Assolutamente, anche perché voglio dire, i giornali di oggi sono pieni di celebrazioni, come si diceva, di questo come nuovo pontefice, come giusto che sia per questa prima apparizione, poi però insomma bisognerà vedere che cosa sarà in grado di fare, cosa saprà fare e insomma, come si comporterà nel concreto. Tra l'altro 800 24 00 24, la domanda che facciamo anche a voi ascoltatori, a voi che magari avete assistito a questa doppia sensazione, la prima quella di gelo totale, la gente che cercava su Google chi è Bergoglio, no? In realtà Bergoglio ebbe anche molti voti nel precedente conclave, cioè era stato lì testa a testa con Ratzinger. Fu il secondo più votato e il più votato tra i papi fuori dal continente europeo nella storia. E tra l'altro invece ci è stato, secondo me, almeno io questo ho colto quando è stato l'annuncio del nome Francesco, e lì la piazza invece si è come dire risvegliata con di giubilo e di stupore, perché effettivamente la scelta di Francesco, che nessuno aveva fatto, è davvero epocale. Vogliamo salutare anche la professoressa Lucetta Scaraffia che ci ha raggiunto. Professoressa, buongiorno. Buongiorno, per 5 minuti, sì, scusatemi. Ci manca. Mancherebbe, sì. So che sono giorni anche intensi, so che va a lezione all'università, ci mancherebbe. Allora, tutti sì. Si chiedono e parlano di questa svolta epocale, un papa gesuita ed è la prima volta il cosiddetto papa nero, no? Un papa che sceglie il nome dei francescani e quindi anche questa è la svolta epocale, si presenta in maniera umile, dice buonasera a tutti, saluta dicendo e adesso buonanotte, ci vediamo domani, sì. Ma che sta succedendo, professoressa? Beh, sta succedendo un po' quello che è successo già con le dimissioni di Ratzinger, cioè che intanto che il papato sa rinnovarsi in modo insperato e poi che i conservatori, perché Bergoglio è sempre stato annoverato fra i cardinali conservatori, sono quelli che fanno le rivoluzioni nella Chiesa. Perché il nome Francesco soprattutto mi sembra un segnale molto chiaro veramente di rinnovamento della Chiesa. Questo sì, qui anche lei dice un conservatore, ecco, ci aiuta a capire, sì. Perché prima Simone Spezia ha detto non pensiate, come già su Twitter e sulla rete, no? si lanciano in molti che siccome è un cardinale argentino e si presenta con noi Francesco adesso apra dossier, che ne so, su i matrimoni per gli omosessuali, cioè è il Papa, cioè, sì. Voglio dire, rappresentante della Chiesa, non scherzo. Insomma poi voglio dire, su aborto e matrimoni omosessuali, quello che dico è trovate uno da un vescovo in su che sia effettivamente a favore di tutto giù, questo. Ma anche in giù, insomma, qualsiasi anche in giù, sacerdote. Scusi, il cristianesimo non è favorevole dalle sue radici. No, ma appunto, non riesco a capire perché dobbiamo... No, guardate che essere... progressisti in questo senso è una speranza veramente infondata della Chiesa. Io penso che un papa che si chiama Francesco invece lavorerà veramente per una riforma della Chiesa nel senso di purificazione, nel senso anche di così fine cercare di limitare le tentazioni del denaro, del potere. Ecco, io penso che questo sia principalmente il suo obiettivo, quello che serve di più. Professoressa Scaraffia, io ho l'impressione appunto che sia stata una scelta ottima complessivamente, anche perché si è scelta una figura che già da come si è presentata ieri è comunque una figura carismatica, appare come una figura carismatica, e anche questo alla fine alla Chiesa serve, tutto sommato, cosa che Ratzinger non era oggettivamente, insomma, no. E si è presentato come un pastore immediatamente, cioè ha avuto anche questo fatto di far dire le preghiere di tutti i giorni insieme con i fedeli, è stato un atto semplicissimo e estremamente non si è mai nominato Papa, cioè non ha mai detto io sono il Papa, ha detto sono il Vescovo di Roma. Perché secondo lei non ha neanche nominato l'Argentina, insomma, il primo Papa argentino, il primo Papa sudamericano? Ha voluto rimarcare che cosa? Ha voluto rimarcare intanto l'universalità del papato, che è come Vescovo di Roma, cioè il Papa è universale proprio perché è il Vescovo di Roma, e quindi in questo senso leggere un Papa americano del Sud America ha accentuato l'universalità del papato, però lui nello stesso tempo ha detto sono universale perché Vescovo di Roma e non perché sono argentino. C'è la possibilità che poi non è argentino, è oriundo, diciamo, è italiano, è italiano. È astigiano. Tra l'altro la mamma si chiamava Sivori di cognome, quindi figuriamoci, insomma. Vabbè, no, tra l'altro racconta oggi il Corriere della Sera in un profilo che cucina da solo, ha avuto anche una fidanzata da giovane, professoressa Scarafia. Il tango, è un appassionato di tango. Tutte buone notizie. No, le chiedo questo, su un punto al quale molti italiani cattolici guardano tanto, cioè la questione dei divorziati e per esempio l'approccio alla comunione, e coloro che sono risposati, insomma tutto un dossier molto molto vicino al sentire comune delle persone. Secondo lei su che cosa potrà aprire, per esempio su questo? Ma guardi, io penso che questo sia un falso problema che propongono soprattutto i giornalisti, perché intanto c'è un'ampia possibilità già adesso per i sacerdoti confessori di concedere la comunione se le persone lo meritano in queste circostanze. Quello che viene applicato è un principio e ovviamente finché il matrimonio è indissolubile questo principio sarà quello. Però lei sa, ci sono persone che magari subiscono una separazione, non la vogliono, vengono abbandonate. Guardi che sì, ma queste persone infatti troveranno poi un sacerdote che risolverà il loro caso. Cioè la Chiesa ha sempre capito la necessità di mantenere il principio e poi nella pratica di avere, diciamo così, pietà, di essere vicino ai problemi delle persone. Quindi attaccare continuamente i principi in questo modo mi sembra... È sbagliato. La professoressa Scarafia ti bacchetta, Alessandro, cattivo giornalista la professoressa Scarafia che è sempre con noi, è grande ammiratrice reciproca, devo dire. Il cellulare è andato via, possiamo farle un'ultima domanda, professoressa, è ancora con noi? No, il cellulare, ecco, ci ha abbandonato. Ma comunque poteva stare 5 minuti, ha fatto 4 minuti e 40 e via. Allora, facciamo così, Simone. Noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ci sono anche già tanti ascoltatori, 800 24 00 24. Ci sono anche gli sms che ci dicono saltate la biografia scomoda del nuovo Papa che secondo quello che dicono in rete avrebbe appoggiato la dittatura argentina. Ma non saltiamo niente, ma che dobbiamo censurare? Non ho capito. Oggi ci sono articoli su questo, il migliore secondo me, Simone, lo troviamo sul Secolo XIX, tu non l'hai letto, ma io sì, perché sono qua dalle 5, ma adesso te lo passo sotto banco, così studi anche tu in questo minuto, e parliamo anche di questo, insomma, le polemiche che ci sono, perché argentino, secondo un libro, avrebbe avuto qualche implicazione. E poi Repubblica intervista anche l'autore del libro che dice però che le prove non sono schiaccianti. Esatto. Comunque tra poco ne parliamo anche con gli ascoltatori, siamo qui, stiamo qua fino alle 10, insomma ci assista lo Spirito Santo. Gli speciali di Radio 24. Eccoci con anche Simone Spezia. Allora Simone, ti devo fare ascoltare. Intanto non ho l'articolo del Secolo XIX, ho millantato. No, l'ho lasciato di là, ma c'è, tra poco ne parliamo della questione. Lo vedi, la casta dei giornalisti che mente con la dittatura, sempre. Con la dittatura argentina. Ma ti devo fare ascoltare. Come si chiama il nuovo Papa? Lo sai? Francesco I. No, ho capito. No, a parte che è Francesco. Non si dice, ma il secondo sarà mai il secondo. No, ma il nome e cognome. Jorge Mario Bergoglio. Jorge, perfetto. Jorge. Allora, ti faccio ascoltare un audio, vediamo se ricordi. Verba vana, aut risui apte, non loqui. Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo. Ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza. Sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso. Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie. E insomma, chi è questo? Padre Jorge da Burgos, il protagonista del Nome della Rosa. Padre, qui c'è bello il ribaltamento, il Nome della Rosa era Padre Jorge, che tra l'altro è quello il cattivone, sì, no? Quello è... Che ce l'ha col francescano Sean Connery, e sì, come se a Guglielmo da basket, eh? E vabbè, questo è... tra l'altro ho appreso, si parla dei gesuiti e francescani, sono andato sul sito dei gesuiti che contiene anche delle barzellette sui gesuiti e delle barzellette su gesuiti e francescani, no, ecco, vabbè. Va detto, perché sono simpatici, no, insomma, ne hai una? Vediamo se sono mandabili in onda. Allora, un paio di ascoltatori, poi parliamo anche di questa cosa dell'Argentina, Marco, cioè dell'Argentina, della biografia di Bergoglio, del Papa, la dittatura argentina. Marco dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica, Marco. Marco, buongiorno. Sì, senta, io mi sono laureato in filosofia e comunque ho studiato molto bene, tra l'altro uno degli esami ho studiato per quello che riguarda i gesuiti, volevo, sì, fare una premessa. Allora, storicamente i gesuiti sono... il braccio armato e commerciale del clero storicamente, perché, sì, ricordiamoci che in tempi storici comprarono il porto di Nagasaki e commerciarono, il commercio che passava tra i paesi dell'Oriente era in mano ai gesuiti. Ricordiamoci oltre a questo il fatto che la Chiesa li aveva anche, tra l'altro, banditi per un certo periodo, e riuscirono tra l'altro ad assassinare anche con un loro generale. Marco, è bellissimo questo, però non è che siamo in un esame di storico, cioè, sì, questo per dire che cosa? È un po' la scelta della Chiesa, a mio avviso, non è poi così francescana. A mio avviso i gesuiti sono un braccio sostanzialmente molto determinato, molto deciso, certo, per anche cui... molto rigoroso nell'istruzione, rigoroso, Ignazio da Loyola, cui... ma cosa si aspetta? Però voglio dire, questo per dire, secondo lei, che non è un po' un'immagine che stiamo dando un po' annacquata in realtà dell'innovazione di quello che è successo ieri? Sì, secondo me sì. Però è la prima volta della storia di un gesuita. Secondo me è troppo... Non bisogna farsi prendere un po' troppo la mano da questo nome. Certo. Ma bisogna parlare proprio dell'estrazione. Ma questo senza dubbio. Dovremo vedere come si comporta. Io dico solo una cosa. Siccome per il momento abbiamo questi pochissimi elementi che hanno il loro profondo significato nella Chiesa, cioè un Papa che si affaccia e sta 2-3 minuti, non di più, a parlare con i fedeli. Per il momento questo abbiamo, e su questo possiamo giudicare, oppure sul passato di Bergoglio. E quello che possiamo giudicare, come si è presentato, come ha parlato, con la croce normale, non la croce dorata da 70 carati e 18 kg, vestito in maniera sobria, parlando buonasera a tutti, inchinandosi lui al popolo, insomma, sono, sì, segnali, no? E poi ci sono pezzi di biografia, a prescindere dalla questione dei rapporti con la dittatura argentina, sui quali arriveremo sicuramente, ci sono pezzi di biografia e di racconti che ci sono arrivati, abbiamo intervistato una serie di preti che stanno là a Buenos Aires, che ci dicono che è uno che appunto gira in metropolitana, va a prendere il giornale a piedi, è sempre disposto all'ascolto. Quindi... Perdonatemi, forse sono stato interpretato male. Sì. Il braccio rigido non è rivolto alla massa, al popolo del Vaticano, al popolo religioso. A mio avviso è stato scelto un Papa dal braccio rigido, un loro interno rigido per dei motivi interni. Sì. Certo, ma sicuramente avranno avuto allora tutta salute Marco, in ogni caso, Marco, staremo a vedere. Quello che vogliamo dire è che sicuramente nessuno giudica, per il momento quello che si può giudicare sono le prime impressioni, poi come al solito le persone, chiunque, anche il Papa, andrà giudicato storicamente dagli atti che farà e dalla politica che farà in Vaticano. Comunque, Marco, la ringraziamo. Allora, vediamo se c'è Paola da Firenze, poi parliamo anche di questa cosa dell'Argentina, prima del giornale radio. Paola, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti. Volevo dire una semplice cosa. Io ho un marito sudamericano, brasiliano in questo caso, e penso che glielo dovevano dopo 1300 anni, insomma, un Papa del Sud America. E quindi, essendo l'America Latina un grande comunque bacino cattolico, almeno in passato, che comunque si è ridotto negli ultimi decenni per le varie confessioni che sono nate, e quindi mi sembra una scelta. Dovevano, lei dice, secondo quello che c'è scritto anche sui giornali, l'hanno data a un continente dove quotidianamente c'è una perdita proprio di fedeli, esatto, stacco dalla Chiesa. Io sono stata diverse volte in Brasile, comunque ci sono confessioni in ogni strada, no? Quindi hanno perso, certo, comunque negli ultimi 10 anni un 20-30%, mm-hmm, e mi sembra appunto una scelta, un modo anche per rievangelizzare, questo, esatto, sicuramente. Esatto. Grazie, mi Paola. Allora, molto, e faccio molti auguri perché hanno fatto una buona impressione. Vabbè, certamente deve molto lavorare. Dovrà lavorare, il Papa dovrà lavorare, però pare che si svegli alle 4 del mattino, quindi sicuramente per lavorare a tempo. Prima del... poi ci saranno ancora gli ascoltatori, Luisa da Segrate, poi le recuperiamo. Allora, la questione dell'Argentina, così spiegata sul secolo XIX, è questa. C'è questo giornalista argentino, Orazio Verbitsky, che è uno dei massimi studiosi del periodo della dittatura, dice che due gesuiti furono torturati, incarcerati dalla dittatura e secondo alcune accuse furono denunciati proprio da allora il sacerdote Bergoglio, ma la versione di Bergoglio è invece no, lui li ha salvati, quelle due persone, chi dice altre cose è un dice che quantomeno ha provato a salvarli, da insomma. Qui è già stato subito crocifisso da coloro che assolto da coloro che invece dicono assolutamente sono cose, accuse infamanti. Vabbè, Poi, come ti dice lo stesso Verbitsky, scrive: ha scritto due libri raccogliendo le testimonianze. Parla delle ambiguità di quel periodo, perché in quei momenti, naturalmente, le ambiguità sono molte. E dice: non ci sono prove schiaccianti. Ma quello che raccontarono a me fu l'operazione di pulizia condotta fra i gesuiti contro coloro che si opponevano ai militari e volevano denunciare le violazioni dei diritti umani. Vediamo se c'è ancora, mentre ci scrivono, basta sputare sul Papa, non lo so, evidentemente va bene. Andiamo a Luisa da Segrate, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Non so se mi sentite. Benissimo. Perché sono in una... Niente. Quello che vedevo già anche è stato un po' detto, a me è piaciuto moltissimo questo Papa perché si è presentato in modo molto semplice, con parole che hanno toccato il cuore della gente, e il nome è molto emblematico, Francesco, quindi secondo me vuol dare un messaggio di avvicinarsi, insomma, avvicinarsi alla gente. Lui va in giro con i mezzi pubblici, almeno andava in giro con i mezzi pubblici in Argentina, sono tutti segnali molto molto forti. Cioè le piace questo recupero di valori, uso questo aggettivo, sì, francescani volutamente. Sì, anche un po' anche in politica, cioè mi sembrano delle cose molto parallele, quindi avvicinarci di più alla gente, quindi Papa dell'austerity. Il parallelo, Luisa, mi perdoni, magari vogliamo un pochino più alto, insomma, il parallelo tra, insomma, lui è poi il Papa della Chiesa universale, quindi ecco, è certo, sta in Vaticano, quindi molto vicino a noi, però lei vede e scorge anche questo parallelo con invece la non sobrietà della politica italiana. C'era Alessandro oggi in uno dei vari retroscena che si sono letti devi leggere la barzelletta che prima hai detto, che poi andiamo a giocare in radio veloce, sì. Però una signora incontra un gesuita e un francescano, trovata sul sito dei gesuiti, attenzione, sì, non sì, è sì, irriverente, sì, sì. Incontra un gesuita e un francescano e chiede loro quante novene occorrono per avere dalla provvidenza una Mercedes. Il francescano risponde: che cos'è una Mercedes? Il gesuita: che cos'è una novena? Gli speciali di Radio 24. Eccomi, sono Alessandro Milan e qui c'è anche Simone Spezia, anzi sono io che sono abusivo in questo spazio. Non sei mai abusivo, Simone. Alessandro. Stiamo in diretta fino alle 10 per questo speciale sull'elezione del pontefice Papa Francesco. Il cardinal Bergoglio. Ci chiedono su Twitter, dice: ma siete sicuri che abbia scelto il nome Francesco pensando a San Francesco d'Assisi? Non so, magari l'ha fatto pensando a San Francesco di Sales, che tra l'altro è patrono dei giornalisti, quindi pia speranza nostra, però insomma, sinceramente credo che la scelta sia stata... Credo proprio di sì. Un gesuita, primo papa gesuita, che sceglie il nome del santo dei francescani. E tra l'altro un papa che guarderà ovviamente, come tutti i papi, anche al dialogo interreligioso con le altre due grandi religioni monoteiste, l'islamismo e l'ebraismo. A questo punto vogliamo salutare, lo ringraziamo, il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, che è con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Professor Di Segni, allora intanto le chiediamo un primo commento, una prima reazione a questa svolta che pare davvero epocale per la Chiesa Cattolica. Anche lei la vede così? Beh, è chiaramente un segno di apertura e rinnovamento verso prospettive internazionali che lasciano ormai l'Europa alla sua, diciamo, dimensione antica e classica. Adesso il mondo cristiano guarda oltreoceano ed è anche opportuno che lo faccia, visto gli sviluppi della crescita del cristianesimo in quelle regioni. E, è tutto un grande movimento interessante, una globalizzazione, una perdita di centralità per l'Europa. Sono un pochettino, diciamo, guardando tutte le speranze che ci sono state come italiani in un papa italiano, diventano speranze un po' provinciali rispetto a quello che sta succedendo. Certo. Il dialogo con Ratzinger non è mai stato molto facile, no? Ricordo un episodio di qualche anno fa nel quale i rabbini italiani rinunciarono a partecipare alla giornata sull'ebraismo, no? Con organizzata dai vescovi italiani, appunto. Con questo Papa che speranze avete? Perché da quel che ci raccontavano, tra l'altro, in Argentina un'attenzione al dialogo interreligioso molto forte. Le notizie che avete voi sono le stesse notizie che ho io, nel senso che ho cercato informazioni da persone che lo conoscono, informazioni su internet, e sembra che sia stato molto attivo nei rapporti anche cordiali con le comunità ebraiche. Quello che voglio dire, Disegni, si può aprire una nuova fase? Ma penso che ci siano i presupposti per andare avanti in maniera positiva, da quello che vedo appunto nei gesti e nelle dichiarazioni che ha fatto in passato. E questi quindi, d'altronde, come dice lei, anche voi siete alla ricerca di informazioni. Effettivamente anche nel mondo cattolico si coglie questa sorpresa iniziale di fronte a una persona che, è vero, era stata già papabile nello scorso conclave, ma che è stato eletto un po' spiazzando tutti. Diciamo, anche voi avete informazioni abbastanza sommarie rispetto a quella che è la storia e il profilo biografico di Bergoglio. Poi sa, ogni grande nomina non è un caso dal punto di vista anche antropologico, il fatto che salendo al soglio pontificio una persona cambia nome, è come se fosse una nuova nascita, è una nuova persona con tutto il passato, ma diventa, si trasforma, e quindi la biografia è chiaramente essenziale per capire, ma può essere che ci siano anche delle novità. Ritenete positivo che si sia chiusa l'era Ratzinger, comunque? Scusi se sono così brutale, Sì, l'ha detto lei che è brutale. Io, alla fine, con tutte le difficoltà, con Ratzinger si era riuscito a stabilire un rapporto tenendo presente le differenze di tutti i tipi, e quindi le dimissioni di Ratzinger io le ho vissute con un certo rammarico. Adesso si apre una nuova fase e vedremo di andare avanti con disponibilità e interesse. Intanto la ringraziamo, professor Disegni, per essere stato con noi. Vogliamo ricordare Riccardo Disegni, il rabbino capo della comunità ebraica a Roma. Grazie, ci sono anche tanti ascoltatori, vi invito sempre continuamente a chiamare 800 24 00 24. Ovviamente, Simone, sono le impressioni anche degli ascoltatori, chi crede, chi non crede, sono le impressioni, le prime impressioni di una persona che conosciamo da ieri, e conosciamo da ieri nel senso che ha fatto altre interviste eccetera, ma cominciamo a conoscere il mondo cattolico, e il mondo comincia a conoscerla da ieri, dalle prime apparizioni. Facciamo una cosa, viaggiamo anche sul filo della battuta, e fammelo fare a me che sono romanista, c'è Lia Celi su Twitter che ci scrive che il nome Francesco è in onore di Totti. Francesco Primo c'è già, ieri ho letto questo, ma infatti tra l'altro lui non è Francesco Primo, è Papa Francesco, no? Perché poi il secondo sarà eventualmente il secondo. Ovviamente i giornali, le TV vanno anche nell'Astigiano, nel paese di origine della famiglia Bergoglio. Pare che il Papa sappia anche il dialetto astigiano, cioè non ha dimenticato il dialetto. E che dire, andiamo a due ascoltatori. Lorenzo da Verona, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno. Premetto che io ho un'idea abbastanza scettica, insomma sono un po' lontano dal mondo della Chiesa cattolica, ma l'impressione che ho avuto io guardando i fatti dell'ultimo mese è che questa sia stata un po' una grande mossa commerciale, nel senso che io vedo la Chiesa un po' come un'azienda in fallimento. Credo che la Chiesa si sia vista in fallimento, l'allontanamento di Papa Ratzinger è una cosa anomala, da secoli è una cosa che non era mai successa. È stato scelto un testimonial molto apprezzabile dalla grande massa per riguadagnare consenso, ma l'espressione testimonial non è male, cioè, ci sono delle dinamiche che, per carità, è giusto, Lorenzo, noi vogliamo tutto tradurre in così, in elementi molto molto più terra terra. Lei non crede, non so, ma le faccio una domanda molto laica: non crede che le scelte, poi non voglio tirare in ballo lo Spirito Santo eccetera, però non crede che le scelte della Chiesa siano anche su, guardando orizzonti un pochino più ampi del banale testimonial, insomma. Sì, no, io ho voluto ridurre, volutamente ho ridotto un po' questa cosa qua, sì. Dicendo l'azienda, io vedo la Chiesa come un'azienda, devo essere sincero, vedo poco di spirituale in tutto quello che negli ultimi anni la Chiesa ha affrontato sui temi, non ci vedo molta spiritualità, e in un certo senso tutto quello che è accaduto nell'ultimo mese a me lascia pensare che effettivamente sia così, insomma, stanno cercando di riguadagnare consenso. Se proprio vogliamo andarla a vedere, insomma, la Chiesa cattolica ha un potere forte e vuole mantenere questo potere forte. In un momento di calo di consenso continua a mantenere questo potere forte. Io da miscredente dico, ha un patrimonio di 6.000 miliardi di euro, ecco. È un'azienda da 6.000 miliardi di euro. Ieri tra l'altro il Washington Post, come sapete, gli americani queste cose le vedono sempre, insomma, un po' con un occhio differente, ha fatto un pezzo proprio per dire che la Chiesa Cattolica, ripeto, non è per essere irriverenti noi, ma lo sono loro, che la Chiesa Cattolica è il secondo maggior datore di lavoro degli Stati Uniti dopo Walmart. Sì. Quindi, insomma, qua adesso poi questo. Simone ci diranno praticamente che sì. Ci attaccheranno già detto, molto. Ci hanno detto sputate sul palco. No, esatto, invece massimo rispetto, però siamo qui a discutere di tutti gli aspetti. È un uomo come tutti noi, e come si è posto anche ieri, lo ha dimostrato con la sua semplicità. Però Simone, siamo in collegamento con Antonio Spadaro, che ringraziamo e salutiamo. Buongiorno Antonio Spadaro. Buongiorno, è direttore di Civiltà Cattolica, quindi la rivista dei gesuiti, e dunque è gesuita come Bergoglio, come il Papa. Ci aiuterà a capire qualcosa di più, perché sa Spadaro, qui ci hanno detto per esempio che non fatevi ingannare, insomma, i gesuiti in realtà sono sono una congregazione molto rigorosa, il cosiddetto tra virgolette braccio armato della Chiesa, abbiamo trovato questa espressione anche sui giornali. Ci aiuti a capire intanto chi è il nuovo Papa. Ecco, questo lo scopriremo insieme, immagino, perché il nuovo Papa è una persona che, come si è visto, è una persona di grande austerità e di grande semplicità. I suoi gesti hanno rivelato molto bene il suo carattere, che è un carattere che tende non a mettere sé al centro, come abbiamo visto poi. Quindi il suo primo gesto è stato quello di chiedere silenzio, sostanzialmente di chiedere preghiera. Sì. È una persona che fonda la sua esperienza spirituale e la sua azione di governo pastorale, che è ampia, su Dio, cioè, quindi in questo è assolutamente fedele alla tradizione gesuitica e ignaziana, cioè sente la sua presenza come una presenza di servizio. Non è che vi aspettavate la scelta di Ignazio come nome? Ma le dirò, io personalmente immaginavo un Papa Francesco. E per la situazione, per il clima, sentivo il bisogno di un Papa Francesco, quindi la cosa, devo dire, non mi ha stupito. Per quanto riguarda il nome del Papa, intanto lo sento molto vicino alla sua personalità, cioè di fatto quest'uomo ha vissuto anche da arcivescovo, intendo dire, di Buenos Aires, non solo da gesuita, in una povertà, una semplicità, una frugalità, sì, estrema, persona capace di cucinarsi da solo, viaggiava in metropolitana, in bus, quindi uno stile molto spartano, non solo, ma persona capace di stare vicino ai più poveri. Stanno emergendo anche in rete una serie di immagini che lo fotografano con poveri nei barrios, quindi persona molto vicina. Ma c'è un terzo motivo, che francamente è il primo al quale io ho pensato da gesuita, cioè mi sono ricordato di come quando Ignazio di Loyola, il nostro fondatore, ha fatto la sua scelta per Dio, quindi prima ancora della Compagnia di Gesù alle radici, lui aveva Francesco come modello. Però è interessante questa commistione, cioè primo gesuita, perché tra l'altro si dice il Papa Nero quando si parla dei gesuiti? Perché veniva identificato il nostro padre generale, che non è da assimilare al generale dell'esercito, sì, ma certo, generale nel senso che ha uno sguardo generale su tutta la compagnia, veste di nero come noi il nostro abito diciamo è di colore nero. Siccome i gesuiti hanno fama, avevano fama forse di essere particolarmente diciamo potenti o comunque di avere un ruolo significativo, nacque questa dizione di Papa Nero perché è vestito di nero, ma ovviamente siamo tutto nella, insomma, in questa sorta di leggenda. Certo, però lei Spadaro dice io mi aspettavo personalmente un Papa Francesco, forse ce n'era bisogno, e però sì, è il primo Papa della storia che utilizza questo nome, quindi perché tra l'altro secondo lei fino a questo momento nessun pontefice possiamo dire così azzardato a utilizzare il nome di San Francesco? Non ho idea, nel senso non è ci sono dei forse Spadaro è molto impegnativo, sì, tutto sommato come nome, è molto impegnativo, però guardi, di un'estrema conoscendo, cioè chi conosce un po' la figura di Papa Francesco trova la cosa estremamente naturale, perché è una figura che corrisponde molto sia alla sua azione sia al suo temperamento. E poi guardi, in generale, questo lo dico per noi gesuiti, non tendiamo a non mettere al primo posto le cose nostre. Le dirò che io sono ex alunno dei gesuiti prima ancora, ovviamente sono stato ex alunno prima ancora di diventare gesuita. Ho scoperto molto tardi chi era Sant'Ignazio di Loyola, quindi non c'è una grande abitudine a mettere, diciamo, le nostre cose subito in mostra. Quindi direi la cosa importante è la Chiesa, e direi in questo momento il Papa è il Papa della Chiesa Universale, cioè non è più di questo o di quell'altro. Allora, Antonio Spadaro, che vogliamo ricordare è gesuita e direttore di Civiltà Cattolica, rimanga con noi, so che può stare ancora pochi minuti, ci faccia sentire un paio di ascoltatori, magari se avete anche domande, insomma abbiamo i nostri microfoni, un gesuita e dunque gesuita come il nuovo Papa. Fabio dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io volevo fare innanzitutto tanti auguri al Papa Francesco, che penso che mi porti già bene già da subito, che visto che ieri sera stavo anche parlando con i miei colleghi su quale poteva essere il nome, ho avuto l'illuminazione. Ho detto, secondo me dovrebbero chiamarlo Francesco I in ricordo di San Francesco, poi alla fine è venuto fuori così. Per recuperare, dice, anche quello spirito francescano, sì, della Chiesa. Esatto, proprio per quello. Io spero che questo Papa sia un Papa veramente per il cambiamento, che tante volte ho sentito parlare male della Chiesa, dello IOR, dei soldi della Chiesa. Spero che questo sia un Papa che parta dal basso per i poveri, che aiuti veramente la gente. Grazie Fabio, non so se Spadaro su questo ci può aiutare, perché tutti ovviamente guardano anche con grande attenzione a quelli che sono, appunto, si è parlato del dossier dello IOR, si è parlato, come ben sa Spadaro, di tutte le polemiche, di tutti i dossier, di tutti i corvi sul Vaticano. Potrebbe Bergoglio portare che tipo di rinnovamento? Il punto Spadaro è anche un uomo di governo, al di là del nome Francesco, qua sì, tocca governare e risistemare una curia, no? Il punto, certo, al quale guarda molti è questo. E allora il Papa Francesco, il Cardinal Bergoglio, diciamo, prima di essere Papa Francesco, è assolutamente una persona di governo, direi che innanzitutto una persona di governo, perché è stato il prima provinciale dei gesuiti in Argentina, quindi ha avuto un'esperienza significativa da questo punto di vista, anche in tempi difficili. Poi è stato arcivescovo di Buenos Aires, altra città molto complessa da gestire, e presidente anche della Conferenza Episcopale, e quindi direi ha avuto una serie di ruoli istituzionali che lo hanno messo direttamente a contatto con istituzioni complesse in momenti critici. Quindi questa semplicità che appare, che è reale, nello stesso tempo nasconde e manifesta una determinazione. In tutto questo, tra l'altro, in tutto questo non abbiamo ancora parlato invece della vicenda dei cosiddetti sconfitti, possiamo usare questa parola, Spadaro? No. Perché guardi, si parlava di un Papa italiano, si parlava dell'arcivescovo di Milano Scola, io proprio sì. per essere molto semplice, io penso che avesse ragione allora il Cardinal Siri quando disse a Benny Lai, che era il decano dei Vaticanisti, che il Papa si nasce in conclave. Allora io guardavo con una certa, l'ho anche detto in qualche intervista, con una certa perplessità e tutto quello che sui giornali è stato detto in questi giorni. Il Toto Papa. Io mi rendo conto Spadaro, anche quello che è stato fatto subito dopo l'arrivo del nuovo Papa, la CEI ha fatto un comunicato facendo le congratulazioni a Scola, insomma, quindi... Ah, io questo francamente non l'ho visto, cioè, ero in piazza San Pietro, quindi era a contatto con diretto. Ah, questo io non lo sapevo, che immagine, sì. che cosa ha colto lì? Lei ha colto questo momento di totale silenzio, che forse era più lo stupore? Assolutamente, devo dire che chiaramente quando è stato fatto il nome in latino del Papa, penso che sia stato uno, almeno delle persone che aveva accanto, l'unico a capire chi fosse. E quindi a esultare un po', diciamo, comunque a dare qualche gesto di immediata simpatia, e chiaramente la gente accanto a me mi ha subito chiesto ma chi è lei. Cioè questa certa sorpresa, proprio perché i giornali, tranne qualcuno, e devo dire ci sono state delle eccezioni significative, non avevano mai citato Cardinale, anche se nel precedente conclave, ricordiamo, era stato testa a testa con Ratzinger, almeno così leggo, però così. Ripeto, io faccio sempre molta fatica ad assumere per vere delle cose che vengono dette, ma da persone che ovviamente non sono state in conclave. Fa sempre la tara. Ci faccia chiudere con una cosa divertente. Io stamattina sono rimasto stupito, ne abbiamo parlato anche prima. Barzellette. Sul sito dei gesuiti ci sono le barzellette sui gesuiti, ma è una cosa stupenda. Spadaro ci deve raccontare una barzelletta. Noi ne abbiamo raccontata una, no, non ne sa una memoria. Queste cose non vanno raccontate. Ma come no? Sono sul sito. No, ho detto appunto esattamente. Cioè, vanno scoperte, quindi non possono essere. Noi, appunto, da questo punto di vista, cerchiamo di non essere così. Cerchiamo di essere un po' autoironici. Vedi come pensa Alessandro, vedi come Spadaro pensa, che è un uomo digitale, lo trovate anche su Twitter, eccetera, eccetera. È un uomo che pensa alla ditta. Andate sul sito e visitate il sito, volete vedere le barzellette. No, Spadaro, è stato molto, molto gentile. La ringraziamo per essere stato con noi. Vogliamo ricordare, è direttore di Civiltà Cattolica, è gesuita. Tra l'altro, tra pochi minuti, visto che hai parlato di tecnologie, e c'è stata la prima benedizione che ha raggiunto tutti grazie anche alle nuove tecnologie, quindi tutti coloro che erano in collegamento ieri hanno potuto seguire, che non erano in Piazza San Pietro, in TV, in radio, con le nuove tecnologie, è arrivata questa benedizione del Papa. E tra l'altro, tra poco, Simone, te lo annuncio così perché l'abbiamo chiamato, avremo Don Paolo Padrini, che è considerato un prete tecnologico, è colui che ha portato il Papa su Facebook, non su Twitter, ma insomma conosce anche bene Twitter, insomma cercheremo di capire anche il rapporto con le nuove tecnologie del nuovo Papa. Gli speciali di Radio 24. Io sono Alessandro Milan, qui a fianco c'è Simone Spezia, e pure inizio anche a dire le parole Simone Spezia. Insomma, sei in ballo da stamattina alle 6:30. Sì, abbastanza. Anche dalle 5, ma ripetiamo, tra i vari profili potete trovare che il Papa si sveglia alle 4 ed è abituato ad andare a letto alle 21, questo almeno quando era a Buenos Aires, ovviamente adesso cambieranno i suoi ritmi. Allora, ci sono gli ascoltatori, 800 24 00 24, il Papa nuovo, Papa Francesco. Giorgio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che personalmente sono molto contento di questo nuovo Papa, da quel poco chiaramente che si è potuto vedere. Credo che la scelta del nome e il fatto che sia gesuita siano due elementi importanti, da una parte per riportare la Chiesa forse anche a una maggiore semplicità, a una maggiore sobrietà, e credo in questo momento ce ne sia bisogno, e dall'altro per affrontare con rigore, con capacità di governo, tutti i grandi problemi che la Chiesa di oggi si trova ad affrontare, dall'allontanamento della fede, appunto, ai problemi legati a tutte le questioni dello IOR, i dossier, la pedofilia e quant'altro. Quindi lei vede una speranza da questo punto di vista? Assolutamente sì, tra l'altro avendo un figlio, mio figlio che si chiama Francesco, ovviamente sono doppiamente contento doppiamente per questo. Felice. Va bene, grazie Giorgio. Allora, Simone, io vorrei salutare questo nostro ospite che ci ha raggiunto, è un sacerdote, e si tratta di Don Paolo Padrini, che salutiamo. Don Paolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, Don Paolo, io l'ho conosciuto di recente a Novara, è chiamato anche il prete tecnologico, no? Perché? Sì, perché... vabbè, diciamo, Don Paolo va molto meglio, ecco. No, però, spiegamolo, è parroco dove, Don Paolo? Me lo ricorda che io me lo sono dimenticato. Parroco in una piccola parrocchia del Basso Piemonte, quindi, insomma, quindi abbiamo già dei legami anche con il futuro Papa. No, ma io dico il Papa tecnologico perché Don Paolo fa parte anche del così task force, su questo strumento, della squadra che ha portato il Papa su Facebook, no? L'iniziativa. Non ha seguito direttamente la vicenda di Twitter, ma insomma... ha colpito anche perché ieri è arrivata la benedizione, la prima benedizione, grazie all'uso di tutte le nuove tecnologie. Anche questa è una novità, eh? E questo è stato molto interessante, perché di fatto è stata la prima volta in cui è stata esplicitata questo veicolo come veicolo nel quale la benedizione può arrivare, diciamo, alle orecchie e ai cuori di tutte le persone, quindi è una novità effettivamente, certo. È una prima novità proprio meramente tecnologica, ma importante. Anche da qui si può vedere che qualcosa sta cambiando nella Chiesa, Don Paolo. Ma sì, anche se sappiamo che la Chiesa ha sempre comunicato e ogni Papa naturalmente declina anche un po' la necessità della comunicazione attraverso i suoi linguaggi. Come dire, ieri il Papa ha comunicato e come, non avrà usato Twitter, però sappiamo quanto ad esempio Twitter abbia riportato particolari interessanti, no? Come il fatto della scelta del tipo di croce, l'abbigliamento, semplice, alcuni gesti che lui ha fatto, le prime parole, buonasera, tanto in un orario che poteva anche essere così confuso con annunci simili su televisioni nazionali. Sì, no? Fratelli e sorelle, buonasera, ricordava un po' un inizio da talk show. Per me è stato straordinario, buonasera, dico, fratelli e sorelle, è stato straordinario secondo me. Lo dico sorridendo, ma quella parola buonasera lì, detta in quel momento, ce la ricorderemo per tutta la nostra vita. Assolutamente, perché... come il saluto finale adesso, buonanotte, buon riposo, ci vediamo domani. Poi a un certo punto ha detto, no, domani andrò a... secondo me è la semplicità straordinaria di un uomo che parla, in quel caso ovviamente stava parlando a milioni di persone all'ascolto. Sì, anche perché là Twitter non è che gli servisse tanto per comunicare, perché no, probabilmente era in diretta con tutto il pianeta e con... No, se posso permettermi, la semplicità, come si diceva giustamente, di un uomo che io credo che comunichi, abbia la capacità di comunicare per così com'è. Io non noto e non vedo nulla di funzionale in tutto questo, nulla di strumentale. L'impressione che ho avuto, lo dico proprio da sacerdote, da persona, tra l'altro io ho ricevuto anche molti messaggi di amici laici, non credenti, ho ricevuto più sms di conforto da persone non credenti che non credenti, i quali si sono stupiti di questo atteggiamento, che hanno colto con una semplicità veramente comunicativa ed è il massimo. Quando la comunicazione tocca la semplicità e passa attraverso la semplicità, anche dal punto di vista della comunicazione come scienza, è veramente, tocca il suo apice, e questa è una cosa importantissima. Tra l'altro però, Don Paolo Padrini, la domanda è questa: il profilo Twitter, che già era stato una svolta epocale, insomma, per la Chiesa, il pontefice che aveva un profilo Twitter, il problema è che ogni profilo Twitter è, diciamo, legato a una persona, in questo caso è legato alla funzione, cioè cosa farà? Perché magari il Papa Bergoglio non è amante delle nuove tecnologie, non è così portato a utilizzare questo strumento di comunicazione. Come si comporterà il Vaticano? Ma diciamo, intanto io, il Vaticano ha fatto una scelta quando è stato aperto il profilo Twitter. Il profilo Twitter non è stato aperto col nome Benedetto XVI, ma è stato aperto col nome Pontifex, che è il nome, diciamo, del servizio della persona, non tanto la persona singola, ma la persona in quello che fa, il ponte tra il pontefice, che poi significa il pontiere, potremmo utilizzare un linguaggio che adesso anche nel mondo politico si usa spesso, no? Abbastanza in questi giorni, sì. Chiamiamolo così, il pontiere. E quindi la scelta che è stata fatta di utilizzare un nome Certo padre che il paragone con Zoggia del PD è abbastanza irriverente, tutto sommato. Non è un paragone, ovviamente è troppo come tutti no, i paragoni. Si scherza, per carità, si scherza. No, certo, era solamente un uso del linguaggio, a me piace giocare con le parole, me lo permetterete, ecco. Assolutamente. E niente, però dicevo appunto, la scelta è stata fatta quella di un nome non legato alla persona, ma un nome legato all'istituzione. Da questo punto di vista quindi credo che non ci sarà nessun problema a proseguire il servizio di pontefice anche attraverso Twitter, perché di fatto Twitter è stato sdoganato, passato, non come il Twitter del Papa, anche perché sarebbe insomma banale pensare che il Papa abbia bisogno di comunicare twittando, no? Certo. Come se fosse una rockstar o come se andasse in cerca di avere di un numero di follower impressionante, ecco, non direi che siamo su piani ben diversi. Assolutamente sì. Che dire, io quando ci siamo incontrati, Don Paolo, avevo fatto una domanda alla quale non c'è stata mai risposta, però è una domanda che mi attanaglia, ma è una cosa che io ho da tante. Cioè, se il Papa abbia un numero di telefono cellulare al quale risponde direttamente, ma non, visto che si è molto nella comunicazione, nelle nuove tecnologie, credo proprio di no, però non esiste un numero di telefono. Ma io questo lo ignoro ovviamente, quindi do la stessa non risposta che avevo dato nell'altro consesso. Lo ignoro personalmente, detto questo non mi stupirei affatto che il Papa abbia il suo telefono cellulare con le persone con cui comunica normalmente, con le quali fino a ieri ha avuto delle comunicazioni, e non vedo perché debba interromperle. Da oggi. Non è mai successo, penso, ma non è mai successo neanche in passato, ecco, perché poi le vulgate bisogna anche un po' smitizzarle. Questo no? Sì, intanto la ringraziamo Don Paolo, grazie davvero. Ringrazio voi parroco, e complimenti per lo speciale. Parroco e anche prete tecnologico, io sì. Lo dico, no, fa parte appunto di quel gruppo nel Vaticano che ha studiato lo sbarco del pontefice su Facebook, quindi per dovere di cronaca segnalo che esistono al momento 10 account Twitter Jorge Mario Bergoglio . E sono tutti falsi, naturalmente. Tutti falsi? Perché io ne seguo uno, forse ho sbagliato ieri. Secondo me è falso pure quello, è falso pure quello. Cioè non c'è neanche quello ufficiale. Beh sì, adesso, anche perché non è più cardinale. Noi vogliamo salutare, lo ringraziamo, Don Antonio Sciortino, il direttore di Famiglia Cristiana, ci ha raggiunto. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, chiediamo anche a lei una prima impressione per quel poco che abbiamo potuto conoscere, magari lei lo conosceva anche più approfonditamente per la biografia, la vita condotta fino a questo momento, fino a diventare cardinale, del nuovo Papa. Che prima impressione ha avuto anche con la scelta di questo nome, Francesco, che per la prima volta si impone sul soglio pontificio? Beh, guardi, la Chiesa continua a stupirci. In un momento in cui sembrava messa all'ancolo da tutte le vicende, degli scandali, le divisioni, eccetera, ci fa questa grande sorpresa, e immagino che questo Papa ci sorprenderà, perché ci ha già sorprese nel modo con cui si è presentato nella sua semplicità, e il nome che ha scelto è un programma, sarà il programma del suo pontificato, perché scegliere il nome Francesco e scegliere un nome molto impegnativo, perché Francesco evoca davvero dei temi che hanno a che fare con intanto l'annuncio del Vangelo sine glossa nella sua radicalità, intanto ha a che fare con il tema della povertà e la vicinanza con i poveri, ma questo cardinale Bergoglio l'ha vissuto già personalmente, perché lo stile di vita che ha condotto in questi anni è uno stile molto semplice, molto vicino al popolo. Certo. Il tema Francesco evoca anche il tema della fratellanza. Il Papa, nelle breve parole che ha espresso dall'inizio, ha richiamato appunto termini come la carità, l'amore, la fiducia, la fratellanza, insomma tutta l'umanità è intesa come un'unica e una sola famiglia umana. Credo che in questi tempi ci voleva una svolta di questo tipo. E credo che darà un segnale molto, molto forte. Comincia, non vorrei dire una nuova chiesa, ma ci saranno dei segnali molto nuovi e forti per una chiesa, ecco, più vicina al popolo. Proprio a proposito di segnali nuovi e forti, Don Sciortino, la questione che si troverà ad affrontare il nuovo Papa è soprattutto all'inizio almeno risolvere i problemi della curia, i problemi interni. tra la questione dei dossier, la questione pedofilia, la questione dello IOR. Voi avete ospitato un commento sul vostro giornale nel quale si dice basta con lo IOR, sia le banche etiche, se non sbaglio. Come pensa che si muoverà? Ma intanto questo Papa ha parlato di fiducia, di stima reciproca, eccetera, e la scelta di un Papa latinoamericano intanto vuole allargare l'orizzonte della Chiesa e non ridurre la Chiesa semplicemente a delle vicende che riguardano lo Stato del Vaticano. Già questo io credo che sia un segnale molto forte. Sì, però quei problemi andranno risolti. È un Papa molto semplice, ma un Papa anche molto deciso. E se il programma del suo ministero si ispira a Francesco, io credo che la scelta sarà quella di una maggiore sobrietà, sarà quella di una maggiore semplicità, sarà quella di una maggiore povertà. Per cui adesso nessuno di noi può dire come risolverà questi problemi, ma è certo che ci saranno delle forti innovazioni sia nel mondo della curia sia nel modo di gestire il ministero Petrino. Lui ieri sera ha già dato un segnale quando ha citato il suo vicario di Roma, Vallini, che vuol dire la condivisione di un ministero che non si concentra esclusivamente tutto nelle mani di Pietro, ma che coinvolge il Concilio Vaticano II, che lui rilancerà perché è un uomo profondamente radicato nel Concilio Vaticano II, aveva parlato di collegialità dei vescovi. Allora credo che lui renderà effettiva questa collegialità, questo governo dei vescovi, così come rilancerà un altro concetto, e l'ha fatto nelle sue prime parole, che è quello di popolo di Dio. Abbiamo visto quante volte ha usato questo termine, il vescovo, il popolo. E invece Don Sciortino non ha mai usato il termine papa, cioè non si è mai detto, non ha mai detto eccomi qui, sono il papa, ma sempre il vescovo di Roma. Lui è papa in quanto vescovo, certo, di Roma, questo, per sì. Cui ha parlato, e però è significativo ai suoi fedeli, quindi è qualcosa, credo, di implicito. Ho capito che questo Papa ha trovato subito la sintonia con il popolo e rilancerà la Chiesa sulla scia del Concilio Vaticano, del Vaticano II, e darà molto spazio al popolo, ai laici. Un altro concetto del Vaticano II che in qualche modo è stato dimenticato è che il Concilio aveva riscoperto la dignità e la vocazione dei laici nella Chiesa, tutti sullo stesso livello, non c'è distinzione se non nel ministero tra i fedeli e la gerarchia, ed è la gerarchia che si mette a servizio del popolo di Dio. Poi ovviamente staremo a vedere dagli atti che compirà. Intanto noi la ringraziamo molto, Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, per essere stato con noi. Bene, grazie, buona giornata. C'è il traffico, Simone, poi l'ultima parte dello speciale. Andremo credo anche in Argentina, dove avremo il nostro Darin per capire, tanto lo sbrandiamo, non sarà andato a letto, voglio sperare, sarà in giro a festeggiare per Buenos Aires, non lo so, vediamo. Gli speciali di Radio 24. E allora alle 9:48 minuti, Massimiliano da Milano, buongiorno i nostri ascoltatori. Massimiliano. Sì, buongiorno. Io stavo da farmi un piccolo rimprovero, bene, se posso permettermi. Anche grande. No, è piccolo, perché mi pare che avete dimenticato la cosa più importante che è successa da ieri sera con questo nuovo, con l'arrivo del nuovo Papa. Cioè, questo nuovo Papa ha zittito Giuseppe Cruciani. Sembra, come dire, il vero miracolo. È un vero piccolo miracolo, quindi mi sembra che su questo punto bisognava quantomeno fare una citazione. Vabbè, Massimiliano, è il momento della Celia. Questa telefonata andrà in onda sicuramente. Questa sera alla Grazie, zanzara. Ha dato l'apertura alla zanzara di Giuseppe Cruciani questa sera, a meno che non ci sia il nuovo governo, e quindi anche in quel caso salterà ancora con uno speciale la zanzara. Roberto Darin, buongiorno, ma io ho fatto una figuraccia, ma è vero che sei in Italia? Mi spiace deludere, ma sono in Italia. Miseria. Io ho detto almeno lo sbrandiamo alle 2. Che ore sono a Buenos Aires? Le 2. Le 6 di mattina. Alle 6 di mattina, vabbè, insomma, allora sarebbe stata. Però, che sta succedendo in Argentina? Tanto tu lo sai anche dall'Italia. Ma il paese, come dire, è molto entusiasta dalle prime indicazioni e dalle primissime dichiarazioni. Poi naturalmente Freddina invece la Kirchner, immagino, sì, che i rapporti con ci sono stati. Sì, certo, perché i rapporti non sono mai stati molto buoni, e soprattutto negli ultimi tempi lo scontro era stato diciamo, vibrante tra lei e Bergoglio sulla vicenda dei matrimoni gay, mentre suo marito, l'ex presidente Nestor, lo aveva addirittura nominato con un avversario politico, quindi lo scontro era aperto. Rapporti quindi non facili, paradossalmente con un governo che si era schierato da parte dei poveri ed era stato accusato dall'opposizione tuttora di populismo e di voler concedere eccessivi sussidi ai poveri. Senti, Bergoglio in più di un'occasione invece aveva sostenuto la necessità di volgere l'attenzione alle fasce più deboli. Roberto, ci deve aiutare su queste polemiche che sono già fiorite su Twitter, sulla rete, le accuse di aver fatto in qualche modo parte anche di una connivenza, di avere tradito due sacerdoti gesuiti all'epoca della dittatura. Si va a scavare ovviamente nel passato del cardinale Bergoglio, e la difesa di Bergoglio è sempre stata, nel libro di Orazio Verbitsky, sono accuse infamanti. Anzi, io ho difeso e ho cercato di salvare questi due gesuiti. Allora, nella biografia di Bergoglio c'è qualcosa di scomodo? Dunque, esordiamo dal titolo di pagina 12, che è il giornale di sinistra su cui scrive Verbitsky di oggi. Il titolone è Dios mio. E molto lo capiamo tutti, lo capiamo tutti. Certo. Lo capiamo tutti, e quindi è una sorta di imprecazione che nel contesto non guarda con favore alla nomina di Bergoglio. Ora, effettivamente ci sono queste accuse che sono documentate da Verbitsky, a cui però lui ha replicato con fermezza, trovando una lettura più equilibrata che non si beva completamente la versione di Verbitsky e ceteris paribus, contemporaneamente non accetti come scontate le contro le difese, affermazioni, diciamo, sì, di Bergoglio e dei suoi, parrebbe che lui, insomma, non si sia esposto come altri vescovi latinoamericani a favore dei desaparecidos, né però abbia avuto una posizione netta in senso opposto, quindi in una zona collocabile su questa vicenda, in America più Latina e in Argentina in particolar modo, continua ad essere un nervo scoperto, collocabile quindi direi in una zona grigia in cui ha cercato, lui in quel periodo aveva 40 anni, quindi come dire era in ascesa, ha cercato di avere una posizione media, di galleggiare, di galleggiamento, ecco, questa è un po' l'interpretazione di chi ha deciso di non schierarsi da una parte né dall'altra. È pur vero che questi due gesuiti, di cui uno è morto poco dopo, secondo secondo gli scritti di Verbitsky, effettivamente la responsabilità di Bergoglio ci sarebbe. Ora poi, ripeto, sì, non si potrà neanche mai appurare questo, perché sono due versioni in contrasto. Anche perché, come dicevamo, Roberto, lo stesso Verbitsky dice le prove non sono schiaccianti, quindi appunto non c'è una verificabilità concreta. Allora, Roberto, noi ti ringraziamo intanto per essere stato con noi, Roberto Darin, anche se non sei in Argentina, mi hai fatto fare questa figura barbina. Scherzo, ovviamente. Buona giornata, Roberto. Roberto Darin del Sole 24 Ore e in genere a Buenos Aires. Allora c'è Gianluca Nicoletti nei nostri studi di Roma. Gianluca, ciao, buongiorno. Eccoci, ciao, qua, buongiorno. Io e Simone Spezia siamo pronti a darti la linea, perché continua, insomma, sì, immagino, questa tematica del pontefice che tu tratterai come? Ma io farò parlare gli ascoltatori, devo dire, perché ormai il quadro è stato fatto, un quadro pieno di contrasti, si va dal gabbiano che annuncia il Papa di San Francesco fino a, vedi, le ombre ai tempi della dittatura, che difficilmente saranno chiarito, perlomeno potranno essere nascoste. Che impressione fa questo in chi ci ha ascoltato questa mattina, che ha seguito la lunga maratona di Bruno Vespa in estasi di fronte a tutti questi piccoli episodi che costellano la figura di un Papa che ancora deve esprimersi, al di là dei pochi minuti intensi, singolari, con il minuto di silenzio che tanto è piaciuto a tanta gente? Bisogna capire adesso e vederlo all'azione in un momento molto particolare. Soprattutto mi interessa sentire le stesse persone che ho sentito ieri che scommettevano sul Papa. Ieri abbiamo fatto la trasmissione sul Toto Papa e ho visto che le persone con grande attenzione erano pronte a scommettere sul Papa e nessuno scommetteva su questo. Oggi che questo Papa è una realtà, come la pensa chi ha seguito la cosa in televisione? L'aspetto mediatico è molto importante. La Chiesa in questo momento deve darsi comunque una sua nuova immagine, un'immagine che è molto compromessa, diciamo la verità, con un Papa in attesa, con un Papa dimesso, con un Papa appena nominato, una situazione del tutto nuova, del tutto singolare. Beh, come la vedete voi? Come la sentite? Io spero che le persone che già hanno telefonato a voi le tengo in caldo e le farò parlare tra poco. Assolutamente. Allora Gianluca, tra poco, io avevo puntato sul cardinal, puntato, cioè così, sul cardinal Tagle, filippino. Lo pagavano a 30 Bergoglio. No, puntato, no, non ho puntato manco un euro, cioè in realtà. Allora, grazie Simone Spezia, e niente, che dire, domani si ritorna alla programmazione normale? Normale, sì. Certo. Sì, sì. Va bene, allora io tornerò alle 6.30 in onda con 24 mattino. E io torno subito dopo il giro delle 9. Benissimo, ora il giornale radio.